Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 Estate con la seconda puntata dedicata a musica e storia. Ieri abbiamo cercato di raccontare il 1960, oggi il 1961. Con me ci sono sempre Marina Milone per la storia e Franco Schipani. Lo ricordo, Franco è autore e produttore di programmi musicali dagli Stati Uniti per oltre 30 anni e soprattutto è il fondatore della versione italiana del Rolling Stone Magazine. Beh, Franco, allora iniziamo col 61? Iniziamo col 61 e iniziamo alla grande! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stay. Vabbè, questa la adoro. Buongiorno a tutti. Ciao Franco. Ciao Marina. Non a caso questa è una delle canzoni del secolo, o sbaglio? No, non ti sbagli, sono state fatte versioni di tutti i tipi. Credo, sospetto che ci sia anche una versione in mongolo, addirittura. Cioè, non si capisce nulla, però sotto diciamo che la canzone con Stand by me, stand by me. No, sì, una meraviglia. Capisce. Scusa, rialzala un po', per favore, scusa. Should crumble to the sea. Bene, Franco Schipani, che cosa succede nel mondo della musica nel 1961? Sta succedendo qualcosa di cui nessuno sospetta. Robert Zimmerman, meglio conosciuto come Bob Dylan, lascia il suo paesello del Minnesota. Sembra niente, però è importante perché si trasferisce a New York, nel Village. E quindi che deve fare a New York? Perché? Il Village era in quel momento la Mecca degli artisti, cioè di scultori, bisognava pittori, esserci. Sì, o c'eri o non eri nessuno. Ecco, Dylan andò lì perché il suo idolo, Pete Seeger, quello che faceva un po' la country music, la folk music, viveva lì, ma non soltanto, c'erano quelli che poi diventeranno gli scrittori leggendari, storici della Beat Generation, tipo Allen Ginsberg e soci, quindi dovevi esserci. Beh, anche oggi un po' ci devi essere, anche io so che devo essere a New York oggi. Sì, è una New York diversa, però diciamo che il Village attira sempre delle bellissime vibrazioni. Senti, ma di Bob Dylan che hai nominato così non mi dici niente, Blowing in the Wind, quelle cose lì, no? No, Bob Dylan ancora non ha registrato nulla, non ha fatto niente su vinile, è soltanto lì e sta aspettando il momento propizio. E lo sai, Franco, che però intanto in Italia cosa succedeva nel 1961? No, dimmelo tu, per favore. Ecco, il 1961 è l'anno delle celebrazioni per i 100 anni dell'Unità d'Italia. Sono 100 anni che il nostro paese si è unito. E per festeggiare, Torino inaugura Italia 61, una specie di Expo, quello che c'è a Milano adesso. Sei andato a vederlo? No, non ancora, però conto di andarci. Bene, e anche lì si ebbe un grande successo, 4 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. E per l'occasione, perché la regina Elisabetta II d'Inghilterra quell'anno era in Italia, va a visitare l'Expo e indovina chi c'è ad accoglierla? Il re d'Italia e la consorte, vero? Esatto. Era Gianni Agnelli. Gianni Agnelli e la moglie. E poi siamo nell'Italia del boom, l'Italia continua a crescere, l'anno precedente la lira vince l'Oscar della moneta come moneta più stabile, ma questo poi di questo ne parliamo dopo. Torniamo sulla musica. Allora, la musica succede che a Reggio Emilia, se Dylan parte da New York per la conquista dell'America, da Reggio Emilia parte un italiano alla conquista del pianeta. Beh, un classico questo, giusto? Pavarotti classicissimo. Al 100%, cioè in quel momento era con lo smoking appoggiato al pianoforte che faceva il suo lavoro classico di tenore puro. ancora non ha né cantato con gli U2, con Bono, neanche con Julio Iglesias, cioè non ci pensava neanche, capito? Quindi semplice inizio carriera, possiamo dire, inizio carriera di Pavarotti. Diciamo che non aveva ancora guardato con intelligenza, ma anche con furbizia, per esempio, al repertorio napoletano, perché in quel momento ci stava pensando qualcun altro. So, my darling, please surrender. Eccolo, è lui, Elvis, tornato sul luogo del delitto, come mai? Beh, l'anno prima gli è andato benissimo con O Sole Mio, è arrivato primo in classifica, addirittura in America, e in Italia anche nei primi tre o quattro, quindi grande successo, ma ha detto perché non riprovarci, ecco, però... La vuoi sentire veramente la versione? Esatto, versione italiana, ricordati. Versione no, perché tu italiana, sei napoletana, esatto. Quindi lo so che ci tieni. Allora, ti faccio sentire una versione, non quella di Caruso, di Beniamino Gigli e altri. Ti faccio sentire la più bella versione, secondo me, di Torna Sorriente. Vito mare quanto è bello, spira tanto sentimento, mamma tua chi ti lamenta, lasciata. Si fino d'into cuore se ne va, e tu dici guarda Dio. Che meraviglia, che meraviglia. Vera? Beh, questo chi è che la canta? È di Stefano. Beh, sempre comunque questa Napoli, non c'è niente da fare, la mia città produce poesia. Ma guarda che all'estero per tantissimi anni la musica italiana non era quella italiana, era quella napoletana, giustamente. Quindi Napoli capitale che dominava nel panorama della musica. Assolutamente. Però intanto l'Italia non andava male, anzi cresceva, lo abbiamo detto, è il miracolo economico. E l'industria diventa il settore trainante con il 38% degli occupati del totale della popolazione, mentre, Franco, gli occupati nell'agricoltura in 10 anni perdono 12 punti e passano al 30%, quindi gli operai superano i contadini. Poi ti do alcune notizie spot. Il 30 ottobre muore Luigi Einaudi, economista, il secondo presidente della Repubblica Italiana, uno dei fondatori della nostra Repubblica. E altra cosa importante, il 16 gennaio del 1961 viene inaugurato l'aeroporto internazionale di Fiumicino, ma subito un patatrac. Commissione parlamentare sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, perché i costi erano già allora esagerati, lievitano, quindi il primo scandalo, diciamo. Meno male che queste cose non succedono più, grazie a Dio, sono rimaste negli anni 60. Vabbè, su certe cose non sono così lontani questi anni 60. Ancora, il 15 febbraio del 1961 in Italia ci fu l'eclisse totale di sole. Alle 8:40 del mattino il cielo diventò buio come a mezzanotte. Si interruppero tutte le trasmissioni, tutte le attività lavorative. Insomma, l'Italia si fermò. Un grande avvenimento, perché oggi noi queste eclissi le possiamo vedere su internet, in televisione, cioè, però all'epoca fu veramente qualcosa che fermò tutto. Fermò tutto, però non fermò la musica. Ritornata da me. sorpresa, insomma, questo Celentano. Sì, Adriano Celentano. Un po' melodico. Melodico perché? Perché, no, vabbè, ma comunque in quel momento lì, come dire, Celentano ed Elvis stavano vivendo due vite parallele. Cioè, loro che erano conosciuti per ribellarsi, per saltare le chitarre elettriche, i deliri, le fans urlanti, tutte e due in quel periodo, che cosa fanno? Due pezzi melodici. E dicevamo Elvis lo Sole Mio e Torna a Surriente addirittura l'anno dopo. Celentano quest'anno lascia la rivoluzione che aveva iniziato. Il pezzo più venduto dell'anno è proprio questo, che è un pezzo melodico. Fanno switch, si direbbe. Sì, sì. A proposito di melodia, mi pare che dobbiamo parlare di qualche altra cosa, vero? Esatto. Nel nostro viaggio, nella musica, nel tempo, il Festival di Sanremo è una tappa obbligatoria. Allora, vediamo un po' chi ha vinto il festival quell'anno. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Ci sei tu. Sogno più ambizioso, ci sei tu. Beh, rieccole queste melodie antiche nel festival. No, ma melodie belle, però melodie belle, perché poi questi sono i pezzi che sono state portate dalle grandissime orchestre internazionali nel mondo. Cioè, quando Sinatra diceva il rock and roll ha ucciso la musica, perché lui era un melodico fra virgolette, un rivoluzionario nel suo campo, disse noi a un certo punto tutte queste melodie, queste arie, queste cose meravigliose che arrivano di paese in paese improvvisamente sono quasi scomparse. Quindi diamo merito alla nostra melodia di aver esportato questo tipo di canzoni nel mondo. Vabbè, non so se rimpiango tanto questa melodia, ma chi è che cantava? Era Betty Curtis e ha vinto il festival di Sanremo con questo pezzo. Lo ha vinto in un modo, però lei era considerata, la senti come sta cantando, era considerata addirittura un'urlatrice, perché nell'altra versione invece c'era un autore un po' più melodico. Ecco, Betty Curtis ha cominciato nei piccoli localetti, italiana, giusto? Sì, italianissima, col nome chiaramente Curtis per dargli questa internazionalità, e poi è arrivata al Festival di Sanremo dove è andata parecchie volte e sempre con grande successo. Quindi vince e poi diventa famosa? Sì, vince e diventa ufficialmente famosa. Ma che festival è quello del 1961? Guarda, estremamente è un festival dove si comincia a dare più importanza ai contenuti che alla forma. Guarda, te lo posso spiegare soltanto con una canzone e un nuovo autore. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore. Meraviglia questa, ma questa era la colonna sonora sulle spiagge, quelle cose lì. Sì, sì, questo è un pezzo che è nato a Sanremo ed è arrivato a Natale proprio, cioè tranquillamente. È arrivato anche a me, perché questa è meravigliosa, se la mettessero oggi sulle spiagge altro che selfie. Ma guarda che funziona alla grande anche oggi. Però guarda, prima stavamo parlando dei contenuti, no? Perché? Perché per esempio, guarda Fidenco aveva... Ecco, di chi è questo pezzo? È di Nico Fidenco. Però ecco, stiamo dicendo che danno più importanza ai contenuti che all'immagine. Ecco, Nico Fidenco, tanto per curiosità, era fotograficamente impresentabile secondo la sua casa discografica, perché aveva una calvizie che stava avanzando, eccetera. Quindi in copertina di Nico Fidenco non c'era quasi mai la sua faccia. O mettevano belle ragazze, palme, cioè trovano tutte le scuse per non farlo vedere. Stessa cosa, nello stesso periodo, successe a Taglioli. Taglioli che aveva una poliomielite. Chi è Taglioli, scusa? È quello che ha vinto con Betty Curtis con Al di là, quella edizione che abbiamo del festival. Prima. Esatto. Ecco, lui per esempio aveva la poliomielite, cioè Taglioli era uno che ogni volta che cantava doveva stare appoggiato a un pianoforte, una sedia per non farlo vedere, e le donne che erano con lui sul palco avevano un certo non gli faceva piacere essere, diciamo, stare vicino a lui, Un altro che aveva un problema era Giorgio Gaber. Pensate che Gaber, anche lui aveva un problema alla mano sinistra da piccolo, è sì. Una specie di, proprio di attacco, cioè qualcosa nei muscoli, non si capiva bene che cosa avesse, e gli consigliarono una terapia. Che cosa c'era per casa? C'era la chitarra del fratello, quindi Gaber prese la chitarra del fratello e cominciò a suonare, e lui sempre detto: quel tipo di malattia è stata la mia più grande fortuna. Ricordo il suono di una tromba. Bene, Franco, vuoi sapere quanti telefoni avevano gli italiani nel 1961? I telefoni. Esatto, però i telefoni fissi, ovviamente. No, i telefoni, quelli duplex anche. Erano 4.230.000. E vuoi sapere le radio quante ne erano? Radio erano dappertutto, sicuramente di più, vero? 5.800.000. E come siamo a televisori invece? Ecco, i televisori erano 2.700.000. E appunto in televisione quell'anno Enzo Tortora arriva alla conduzione di Campanile Sera, un simpatico quiz che andava in onda su Rai 1. Mentre il 4 novembre del 1961, con il nome Secondo Programma, nasce il secondo canale della Rai. E in quell'anno inizia una trasmissione storica, ma soprattutto bellissima, Studio 1. Ma leggendaria. Meravigliosa, condotto da Mina. E quindi dallo Studio 1 di Via Teulada, con la regia di Antonello Falqui, nasce il Varietà. E da lì arrivano quindi in televisione i primi sex symbols. Ah, finalmente arrivano i sex symbols. Dai. E come sono queste donne? Beh, sono alte, sono bionde, sono esotiche, sono ballerine. In poche parole, sono le sorelle Kessler. Hello boy, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui è arrivato già da un accesa nel buio, sembra la luna che stende sul mar, da un pa da da un pa. Lungo il fiume disegnato in ciel. Bene, riprendiamo dopo la pubblicità. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, o forse anche da sola. Sono Anna Rita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17.30 su Radio 24. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. Mix 24 estate. Da un pa, lungo il fiume disegnato in ciel, se ne va questo sciogù, vola questo super jet che si chiama da trovati su Mix 24, sono Marina Milone in compagnia di Franco Schipani e stiamo facendo questo viaggio nella musica e nel tempo nel 1961. Allora, Franco, queste erano le sorelle Kessler nella sigla di Studio 1. Sì, assolutamente, ecco. Pensa, le sigle facevano così, ballavano, cantavano. Facevano di tutto all'epoca. OMSA presenta Che Gambe! Con Don Lurio e le gemelle Kessler. Questo che sentite sotto fondo è la pubblicità della OMSA, che sono delle calze. Cioè, questi hanno preso proprio la palla al balzo, capito? Però dovete sapere che c'è stato un... la leggenda dice che ci fu un consiglio di amministrazione della RAI in cui si doveva decidere il colore delle calze delle Kessler e la lunghezza dei loro... questo gonnellino. Sì, perché capisci che in quel momento c'è proprio il perbenismo assoluto. La OMSA prese la palla al balzo, gli fece fare lo spot di queste calze che poi ebbero un... Quindi grandissimo scure, successo. Giusto? Se tu guardi lo spot, all'inizio sono color carne, cosa che in televisione non si poteva far vedere. Dopo il primo stacco loro entrano nello studio di Studio 1 e diventano improvvisamente nere, cioè perbenismo più assoluto e codificato. Perché sennò era scandalo, vabbè. Ma le sorelle Kessler erano le sole donne extracomunitarie del 1961 che facevano da protagonista in televisione nel panorama musicale? No, assolutamente no. Adesso te ne faccio sentire qualcuna. Sono, sono mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu, se la Questi brani sono italiani, però non mi sembrano italianissime le interpreti. No, non sono italianissime, però sono di origine italiana. E quando tu dicevi la parola prima extracomunitaria, a me mi faceva veramente ridere, sì. Perché questa, specialmente Connie Francis, ha avuto una vita avventurosissima. Cioè la famiglia era già una famiglia di artisti, di gente che comunque faceva musica, ballava. Scusa, che ballava. Pezzi erano quelli che abbiamo messo? Questo era Chitarra Romana di Connie Francis e poi c'è Caterina Valente con Non Dimenticare. Però stavo dicendo appunto che erano delle girogave, cioè era gente che lasciava una città, si trasferiva in un'altra con la famiglia, imparava una lingua. Cioè queste due interpreti parlavano perfettamente italiano, inglese, spagnolo, tedesco, qualche cosa di giapponese, perché no russo, e portavano questi grandi successi un po' in tutto il mondo nella loro lingua originale. Restando all'estero, ti do un po' di notizie dal mondo nel 1961. L'evento storico, quello più importante, succede il 12 aprile del 1961. Yuri Gagarin è il primo uomo che vola nello spazio ed è un russo. Dopo Moscerini, Cani, la famosa cagnetta Laika dello Sputnik 2, la navicella Vostok 1 porta appunto il primo uomo nello spazio. E questo fa incavolare tantissimo gli americani, ovviamente, perché la corsa allo spazio è uno dei campi in cui si gioca la guerra fredda. E per capire però, Franco, per farti capire quanto è importante questo evento per la Russia, il 12 aprile ancora oggi viene festeggiato come festa nazionale. E non solo. A soli 23 giorni dallo storico lancio di Gagarin nello spazio, il 5 maggio gli Stati Uniti rispondono mandando Alan Shepard, un americano nello spazio, che però beffa un po', compie soltanto un volo suborbitale, cioè interseca esatto. Cioè lui sale e scende, cioè sì, interseca l'atmosfera, non riesce quindi a compiere l'intera rivoluzione intorno alla Terra, quindi Russia è in vantaggio sugli Stati Uniti, e tanto che infatti Kennedy la spara più alta, diciamo così: we choose to go to the moon, dice subito, vabbè, voi siete andati nello spazio ma noi andremo sulla luna, e la lancia così. In realtà non va sulla luna, ma lancia l'invasione nella Baia dei Porci a Cuba. Disastro totale, esatto, completo e assoluto. Si risolve in un clamoroso fiasco. Un'invasione scarica le responsabilità sulla CIA, la CIA le scarica sulla presidenza, insomma un fallimento totale. Però ho bisogno di una pausa. No, la pausa, te guarda, tanto questa cosa ha insuccesso che cominciano a prenderlo in giro Kennedy, la sua politica, anche con questo brano qui, senti. Che saprosito e ricco sta, ya no se puede pedir más. Caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Che cos'era questa, scusa Franco? No, questa è una famosa scenetta che è andata in televisione in Italia, il quartetto Cetra che canta questa canzone, pensa che sono tutti vestiti da Fidel Castro, i Barbudos, infatti questo brano si intitola I Barbudos, dove prendono in giro Kennedy, dove fanno vedere che loro si stanno divertendo a Cuba, in effetti, nonostante la rivoluzione. Sì, però appunto per gli Stati Uniti era stato abbastanza un fallimento l'inizio della presidenza Kennedy. Ecco, ma che cos'altro succede in quel momento? Negli Stati Uniti, esatto, Maria. Kennedy, diciamo, porta avanti la lotta contro la segregazione razziale e approva nuove regole, e finalmente su ogni autobus in America c'è un cartello, un avviso dove c'è scritto che nessun posto a sedere deve essere riservato in base a colore della pelle, credo religioso, origine nazionale. Insomma, sulla carta è la fine della segregazione razziale nei mezzi pubblici in America. Sulla carta, ovviamente, perché poi, come sappiamo, ci vorranno ancora... Sì, però intanto la legge c'è, la cosa più importante, esatto, è che abbiano fatto una legge. È stata molto importante. Sempre Kennedy, a giugno del 61, incontra Khrushchev a Vienna, un incontro fortemente voluto da Kennedy, ma che si risolve in un nulla di fatto. E infatti, brutta notizia questa che ti do, il 13 agosto viene costruito il muro di Berlino, che come sappiamo ha diviso la città e il mondo intero per moltissimi anni. Sì, quasi 30 anni, sì. Ecco, dopo questo giro nel mondo, nello spazio, torniamo con i piedi per terra, ma dal punto di vista della musica, le nostre italianissime interpreti che cosa fanno? Vanno avanti imperterrite e continuano a mietere successi. Ormai anche laggiù nella caliente Spagna non si ballano più passi doppi o boleri. Ora ballano il flamenco rock. Ora ballano il flamenco rock. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già. Blu, le mille bolle blu, blu, le pire intorno a me blu, le mille bolle blu che volano, che volano, che volano. Blu, le mille bolle blu. Beh, grandissimi interpreti, si può dire. Assolutamente. Se abbiamo un attimino una Ornella Vanoni, così mi hai messo. Ma ancora cantano oggi, ti rendi conto, dopo tutti questi anni, sono ancora sulla cresta dell'onda, più che mai. E funzionano più le donne, si può dire? Funzionano le donne. Guarda, in Italia, quando investi su una donna, che sia Mina, Milva, Lavanoni, Patti Pravo, Marcella, chi più ne ha più ne metta, durano sempre più a lungo. Però in quel momento i maschietti non è che se la stavano cavando proprio male. Non è un cappello, ma un crine di cavallo uscito dal palto. Soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore. Con 24 un impiccato. Erano in ordine d'apparizione Il capello di Edoardo Vianello, I 24.000 baci di Adriano Celentano e Cia Cia Cia dell'impiccato con i Flippers. Qual era il successo tra questi tre? Ah, 24.000 baci, se vuoi te la canto, perché te la canto e te la ballo qui in studio? Sì, sì, per favore. Non rientro nelle mie competenze. Vabbè, ma ti voglio dare ancora qualche notizia così sparsa. Alberto Moravia vince il premio Viareggio con il romanzo La Noia, mentre Raffaele La Capria, un altro napoletano, giusto così, vince il premio Strega con Ferito a morte. E poi c'è un grave lutto nella letteratura mondiale. Il 2 luglio del 1961 Ernest Hemingway si toglie la vita con un colpo di fucile nella sua casa a Sun Valley negli Stati Uniti. E nel cinema invece ti voglio dire i capolavori che potevi andare a vedere tu, perché io non ero ancora nata. Dunque, Colazione da Tiffany. Questo, anche se vecchio, è uno dei miei film preferiti. E a questo punto sono io che ti faccio sentire una cosa. River è un classico. Ti piace questo romanticume che molto, ti ho cacciato? Molto. E ancora per il cinema, il bellissimo Paul Newman con i suoi occhi meravigliosi di ghiaccio incantava le donne interpretando Eddie lo svelto nel film Lo spaccone. In Italia invece Pierpaolo Pasolini dirigeva il suo primo film L'accattone. Classico, meraviglioso. Ma soprattutto Totò. Un altro napoletano, ecco. Un altro ecco. Napoletano. In Totò Truffa 62 vendeva la Fontana di Trevi. Questa è la famosa Fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la Fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici vicino all'acqua, eh? Allora la compro io. Mix 24 estate. Rieccoci con Franco Schipani, il nostro super conduttore musicale. Franco, sai chi è nato nel 1961? Non ne ho la più pallida idea, tanti sono nati, ma non so a che cosa ti riferisci tu. Te lo dico io, un uomo che davvero è entrato nella storia, è Barack Hussein Obama, il 4 agosto a Honolulu, nelle Hawaii. Ah, mi vuol dire che si è perso tutto Sanremo, questo poveretto, se gli facciamo gli mandiamo qualche CD, vabbè. Sì, potrebbe aiutarlo così. Si rilassa un po', dici. Nella politica estera, magari per l'Italia, chissà. Ma torniamo alla musica, al 1961, in questo nostro viaggio nel tempo, in quell'anno. Beh, però torniamo alla musica. Io parlerei anche un attimo di cinema, perché in quel momento, pensa, Vittorio De Sica, che è uno dei nostri più grandi interpreti in assoluto come regista, come attore, eccetera, si permette l'uso di scrivere una delle canzoni più belle in assoluto della nostra discografia, che si intitola Parlami d'amore, Mario. Un successone grazie all'ennesimo napoletano Peppino Di Capri. Parlami d'amore, Mario. Successone, questa canzone planetario. Mio padre me la cantava, me la ricordo molto bene. Nella culla per addormentarti, così funzionava. Esatto, mi addormentavo. Però facciamo, guarda, in onore a tuo padre, facciamo sentire la versione originale di De Sica, per favore, dai. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Ecco, proprio così mi addormentavo. Però aspetta, De Sica mi ha detto che la scrive. Ma com'è possibile, De Sica che scrive questa canzone? Non me l'aspettavo. Ma guarda, un cantante che diventa attore, o uno scultore che diventa cantante, era una cosa normalissima. Ti posso fare degli esempi. Per esempio Don Bachi, che noi conosciamo perché era nel clan di Celentano all'epoca, ha scritto dei grandissimi successi negli anni 60 e negli anni 70. Lui non soltanto era autore, poi diventato cantante, poi diventato cantautore, poi diventato attore, e ultimamente fa il pittore, anche con grande successo. Se tu pensi per esempio ad Anthony Quinn, fra l'altro ha anche cantato a Sanremo, il nostro Anthony Quinn. Sì, Anthony Quinn negli ultimi 10-15 anni della sua vita faceva lo scultore. Ma se tu pensi, ti dico soltanto l'ultimo, Tony Bennett, meglio conosciuto come Tony Bennett, di cui Sinatra ha detto Tony Bennett è la voce più bella del mondo, detto da Sinatra. Lui è di origine calabrese, si chiama Anthony Benedetto, ed è quello che ha scritto calabrese come te, eh? Ti accenno, I left my heart in San Francisco, è lui, tanto per intenderci. Lui che cosa fa adesso? Fa il pittore, cioè con grande successo. Artisti a tutto tondo. Quindi, sì, esatto, quindi questa è una cosa, diciamo, normale. Ecco, però io preferisco un'altra versione di quella che mi hai appena fatto sentire, di Parlami d'amore, Mario. Perché qual è? Aspetta, perché io ho capito che alla fine questi anni 60 sono abbastanza vicini poi ai miei anni, e quindi ti voglio salutare sulle note di Parlami d'amore, Mario, fatta dal grande Lorenzo Giovanotti. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano. Tu mi stai parlando di Giovanotti, che è un mio vicino di senti casa. Senti, però che bella, scusa, ma me la rialzi un po' per favore, perché dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Quasi mi viene voglia di cantarla. Cioè, non ti addormenti con Giovanotti, ti svegli con Giovanotti, esatto. Mi stai dicendo. Ah, ok. Vabbè, questo per dire, grande Giovanotti. No, grandissimo. Guarda, Giovanotti, fra l'altro, a New York abita vicino da me. Cioè, Fabio Volo, lui e io, che abitiamo a 300 metri di distanza. Dove? Ovviamente nel West Village. Sempre lì, dagli anni 60. Niente di crea, niente si distrugge. Ecco, Giovanotti ha fatto un'operazione a New York molto intelligente. Lui è arrivato 3 anni fa, si è subito comprato casa. Dopodiché si è andato ad esibire in questi piccoli locali ai quali accennavamo anche prima, del West Village, tipo The Bitter End, The Lion's Gate, insomma questi posti dove negli anni 60 si esibivano Bruce Springsteen, dove c'era Woody Allen che faceva 3 spettacoli a sera da $15 l'uno, capito? Stiamo parlando di questo. E con Giovanotti, cioè Woody Allen si è cominciato lì, anche lui nel West Village. Quindi parliamo dell'inizio degli anni 60. Ecco, Giovanotti ha fatto un'operazione molto intelligente, perché lui ha preso questi locali piccoli e li ha riempiti per 2 mesi, cioè 200 persone tutte le ma sere. Ma chi andava a vederlo, ad ascoltarlo? All'inizio soltanto italiani, però gli americani sono incuriositi, perché tu vedi una fila così lunga nel Village, non c'è neanche per il jazz, dice che succede? Hanno cominciato ad andare, tant'è vero che Giovanotti dopo un po' ha lasciato questi posti, questi locali da 200 posti, si è trasferito per esempio nel Ritz Club, dove ci sono 1500 posti, però lui ha vissuto a New York, ha seguito questo processo, per finire poi a Central Park ha invitato un po' di artisti spagnoli e un po' di artisti messicani, hanno fatto un mega concerto da quasi 40.000 persone. Ma cantando, quindi, bravo. Quelle sue cose, Raggio di Sole, cioè il suo repertorio, che sono piaciute tantissimo, perché in questo miscuglio etnico tutti quanti a Central Park d'estate mangiando gelati e guardandosi intorno e ballando, e sono tutti quanti divertiti, veramente uno spettacolo. Beh, quindi grandissima operazione da parte di Giovanotti. Guarda, veramente, veramente in gamba. Poi a me piace moltissimo, quindi sono di parte, Marina. Vabbè, e su questo ci salutiamo. Salutiamo il 1961, giusto? Sì, pronti per il 1962. Ecco, una battuta al volo, ma cosa prevede questo 1962? 1962 c'è un'inversione completa di tendenza. Cioè, eravamo partiti, ci eravamo liberati finalmente da questa melodia. Da melodia, però ritorna un po', però succedono, guarda, veramente tante di quelle cose. Guarda, soltanto i brani che vi faremo ascoltare, che faremo ascoltare i nostri ascoltatori, parlano da soli, credimi. Va bene, aspettiamo allora la prossima puntata al 1962. Ci sentiamo nel 1962. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Ora ti sono vicino perché sospirai. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è. Che sei tutta per me, qui sul mio cuore non soffro più, parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda negli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul mio cuore non soffro più, parlami d'amore.